Il gastronauta di Davide Paolini. Buona polpetta a tutti, cari gastronauti e cari radioascoltatori. Sentite un po' cosa succede a proposito di polpette. Como psicóloga te digo que deberías dejar ese trabajo y olvidarte de tu mujer que te absorbe toda tu energía positiva. Dejar a mi puri, pero tú estás loca. Si mi puri es lo más grande, ¿cómo se nota que no has probado las croquetas de mi puri? Si tu vida es como tú eliges que sea, tu inversión no debería ser igual. Compra letras del tesoro en tesoro.es. Tesoro público, gobierno de España. Ebbene, cari gastronauti, questo è uno spot mandato dal Ministero del Tesoro in Spagna che invitava a comprare buoni di Stato per stare tranquilli, ma era un dialogo tra due personaggi in cui si diceva appunto che per stare tranquilli bisogna anche ricorrere alla tranquillità della casa e magari uno dice all'altro: però tu per stare tranquillo dovresti assaggiare le polpette di mia moglie. Ebbene, questo spot ha creato un gran caos al punto che le femministe sono intervenute su questo spot, l'hanno fatto ritirare e quindi è stato un grande scandalo a proposito di polpette pochi giorni fa in Spagna. Ebbene, parleremo di polpette, lo avrete capito. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E allora, parlando di polpette, cominciamo da appunto una donna, cominciamo da Alessandra De Leonardis, che porta uno spettacolo nelle piazze che si chiama Morsi d'Amore, ha scritto anche un libro, tutto basato sulle polpette. Fa un'esibizione in cui invita il pubblico ad occhi chiusi, le benda, a creare delle polpette, a fare delle polpette con lei. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Davide. Ma come è venuta questa idea di uno spettacolo basato sulle polpette? Questo non lo so, è stato un impulso irrefrenabile. A un certo punto una parte di me doveva farlo. E quindi è nato, ma qual è l'obiettivo finale di questo appunto esibizione di fare le polpette, quindi di tutta la pratica, diciamo, di fare polpette, sentire gli odori, i profumi e ad esempio chiudere gli occhi a chi fa le polpette? Perché? Lo stai dicendo, l'obiettivo è proprio quello di far sentire a più gente possibile quello che ho scoperto che si sente cucinando in maniera diversa, preparando il cibo in maniera diversa. Ma perché la polpetta, cioè, invita al tatto? Polpetta, l'atto dell'impasto, in questo caso la polpetta, diciamo che emana più profumi la preparazione di una polpetta che semmai della pasta del pane, ma è proprio l'atto dell'impasto che richiede comunque un coinvolgimento totale. Bene, rimani con noi perché abbiamo già una telefonata, poi volevo passare la parola a uno chef che invece di polpette le fa professionalmente. Antonio dalla provincia di Milano, buongiorno Antonio. Buongiorno Davide, volevo solo dare a mio modesto parere una ricetta per fare delle polpette eccezionali. Praticamente alle polpette carne cotta, un po' di lardo, un po' di carne cruda, uova, formaggio e sale e pepe, si aggiunge il sedano Marconi in abbondanza. Cos'è il sedano Marconi? Praticamente quel sedano senza fili, senza filamenti, è stato chiamato sedano Marconi. Ah, quindi in onore senza fili, di Guglielmo divertente Marconi. La cosa. Questo non lo sapevo, era un'informazione che mi mancava. Senta Antonio, ma lei fa il ristoratore? Sì, faccio il trattore. Ah, bene. Ha specificato che fa il trattore, quindi sì. Polpette da trattore. Diceva polpette col sedano Marconi? Sì, e fritte nell'olio. Oppure cotte anche al forno, secondo uno se praticamente le vuole più leggere o un po' più sostanziose, diciamo. Logicamente fritte nell'olio d'oliva sono molto più saporite e molto Senta, più buone. Senta, ma dove si trova questo sedano Marconi? Dov'è che viene prodotto? In quale area di Italia? Ma guardi, è una storia, precisamente non lo so, perché l'ho seguito in televisione un po' di tempo fa ed è stato ai tempi degli anni 20, c'era questo sedano, è stato prodotto in onore di Marconi perché era senza fili, è stato chiamato sedano Bene, Marconi. Bene, allora su questa indicazione di Antonio... Adesso se qualcuno lo sa da dove arriva... Esattamente, faccio questo appello, se qualcuno sa qual è la zona di produzione prego di chiamare. Sentiamo Franco da Verona, buongiorno Franco. Buongiorno, senta, era una curiosità che volevo dirle, no? Che la volta scorsa cercava i nomi di polpette. Sì. E tanti, 20-30 anni fa, quando si andava in osteria nel Vicentino, si diceva dammi un milite ignoto, e quella era la polpetta. Bene, grazie al nostro amico che ci ha dato questa nuova definizione. Bene, io avevo in linea Marco Gubbiotti è lo chef di un importante ristorante umbro, la Bastiglia di Spello, in provincia di Perugia. Io mi ricordo che in questo ristorante si mangia la polpetta di razza chianina, vero Gubbiotti? Ciao Davide, sì, noi facciamo... Abbiamo in carta un piatto con queste polpette di carne chianina fatte con la fessa di spalla, e nell'ultimo menù le abbiamo servite cucinate in due modi, praticamente una polpetta più grande fritta con una pastella croccante e poi servita sopra a una salsa fatta come si faceva una volta la salsa della polpetta. Ecco Marco, volevo chiederti questo, hai detto fesa, hai parlato di fesa di chianina, se ho ben capito. Fesa di spalla, quindi è la parte diciamo adatta alla polpetta, questo, perché poi entreremo su questo argomento. Beh, è una parte tenera della spalla, insomma, ecco, di secondo taglio, però... è molto valido per la polpetta, secondo me. Senti, chianina, perché la carne di chianina si adatta molto alla polpetta? Ma non proprio per questo. Noi siamo qui in Umbria, abbiamo la fortuna di avere allevatori qui vicino che fanno delle carni eccezionali e quindi usiamo la chianina. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di polpette, ma abbiamo con noi un altro radioascoltatore che ha chiamato. Sentiamo prima di passare ai nostri ospiti. Ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Sentiamo Fabio da Milano. Buongiorno Fabio. Sì, salve. Dunque, io ho 28 anni, chiamo da Milano e volevo fare così al mio piccolo un elogio dalla polpetta. Prego. Nel senso che mia madre è la regina della cucina a casa mia, quello è il suo regno, e praticamente uno dei profumi e dei sapori che non potrò mai dimenticare saranno proprio le polpette che fa mia madre. Non so che ingredienti ci metta dentro, però è una roba favolosa. Fabio, come si chiama sua madre? Come, scusi? Come si chiama sua madre? Lucia. Bene, allora un elogio a Lucia da Fabio da Milano. Magari se fossi in linea potrebbe ascoltare direttamente suo figlio. Lei ha parlato di profumi e di odori. Bene, io voglio tornare un secondo da Alessandra De Leonardis, perché le polpette io le ho assaggiate mentre Alessandra ha fatto queste esibizioni in una piazza di Montecatini l'altra domenica, e ho sentito un sapore che era anomalo per le polpette che avevo sempre mangiato, ma mi ha davvero conquistato, e ho scoperto, e lei mi ha detto che mette la menta. Alessandra, ma da dove arriva questa tradizione della menta nelle polpette? Davide, questa tradizione arriva semplicemente dalle mie origini. Io sono nata in Puglia, sono mediterranea, e la menta è la spezia per eccellenza del Mediterraneo. Non solo della Puglia, ma della Spagna, dell'Africa del Nord. Quindi c'è questa tradizione di mettere nella polpetta, oltre altri sapori e profumi, come c'è dal prezzemolo, il parmigiano e via di seguito, la menta. Ma devo dire che è molto caratterizzante, quindi invito chi fa le polpette, provate con la menta di questa ricetta di Alessandra, perché sicuramente è straordinaria, il sapore in bocca è davvero unico. Grazie Alessandra, e auguri per il tuo spettacolo viaggiante di morsi d'amore sulle polpette. A presto. Sentiamo Patrizio da Roma. Buongiorno Patrizio. Buongiorno. Senti, niente, io chiamo da Roma e ho telefonato perché questa mattina stavo preparando appunto le polpette e ho sentito insomma che si parlava di questo. Ho detto: ma tu fai chiamo il cuoco? Pure io. Sì, io ho una piccola trattoria, un'osteria, diciamo, a gestione familiare, e devo dire proprio in merito alle polpette che alla fine è un piatto richiestissimo, nel senso che se uno lo fa bene con quella roba di prima scelta, non è più un piatto di recupero. Ma Patrizio, tu hai un segreto, hai un profumo, un odore? Che il profumo, sì, vabbè, a parte il prezzemolo, comunque io metto anche un po' di noce moscata dentro le polpette. Bene, perché... un altro segreto da Patrizio, sì. Da Roma, Oste in Roma. Grazie Patrizio. Bene, ora andiamo a Matera, andiamo alla casa di Lucio, che è vicinissimo al posto più bello di Matera, i Sassi di Matera, questo posto straordinario. Andiamo da Anna Calia, di cui io tempo fa ho assaggiato delle straordinarie polpette di manzo, ma lei le fa alla griglia. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei quale segreto ha nelle sue polpette? Cosa mette? Anche lei mette la menta? No, no, no, noi non mettiamo la menta, noi mettiamo un pizzico di aglio. Parliamo delle polpette di manzo o di quelle di pane? Di manzo, poi parlare? Magari ci racconterà anche quelle di pane, di manzo. Quelle di manzo io le faccio con il tritato di manzo, ci metto del prezzemolo, del parmigiano, un po' di mollica di pane, un po' di pepe e vengono grigliate. Queste polpettine vengono grigliate e poi passate con il pomodoro fresco e basilico. Bene, stia in linea perché poi ci racconterà quelle di pane. Sentiamo Alessandra dalla provincia di Brindisi. Buongiorno Alessandra. Salve, buongiorno. Io ho chiamato perché ho sentito finora parlare di polpetta. Sì, parliamo di polpette. Oggi parliamo di polpette. 800 24 00 24. Io prego. Chiamo da Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. Sì. Da noi la polpetta è quella di carne. Sì. Però poi ci sono quelli di melanzane, quelli di polipo, però siccome poi la polpetta regina, quella di carne, le dico subito una cosa che non ho sentito finora dire agli altri, insomma, interventi, sì. Agli altri interventi. È importante innanzitutto il macinato della carne, certamente. Che tipo di carne, reale e pancetta soprattutto, perché ha bisogno del giusto grado di grasso perché la polpetta sia croccante fuori e morbida dentro. Poi la polpetta è fritta. Alessandra, ovviamente, ma lei fa la cuoca? Come? Lei fa la cuoca di professione? No, però io ho mio padre che è legato ai sapori di una volta e quindi ogni volta che mi vede fare qualcosa ci deve mettere lo zampino lui. Allora, siccome lei ha parlato di parti di carne, guarda caso ho in linea con noi un macellaio, un bravissimo macellaio che si chiama Fabrizio Nonis. Buongiorno Fabrizio. Ciao Davide, ciao, che piacere sentirti e che piacere sentire tutti questi radioascoltatori che praticamente disquisiscono sulle varie polpette da tutte le parti d'Italia. Ecco, allora, visto che disquisiscono e parlano anche di parti di carne, c'è chi parla di reale, chi di altre parti, ci dici tu qual è la parte migliore secondo te? Hai sentito questa sottigliezza del grasso di questa nostra radioascoltatrice della provincia di Brindisi? Qual è? Ma proprio il bello è questo, Davide, perché ogni paese che vai poi usanza che trovi, però io, sai che poco tempo fa ho amato polemizzare un attimino così nel settore per far capire un concetto fondamentale ed era un messaggio rivolto prevalentemente ai miei colleghi macellai gastronomi. Io ho dichiarato che per fare una polpetta, un hamburger o comunque un qualche cosa che sia un elaborato derivato dalla carne macinata bisogna partire da un presupposto, caro Davide, che è quello di usare prevalentemente carne di primissima scelta. Basta usare carni di rimasugli o che restano magari tagli di secondo taglio perché magari non vanno via, quindi basta usare questa tipologia di macinato perché ai nostri clienti fidelizzati, noi piccoli artigiani straordinari, diciamo dislocati in tutta Italia, dobbiamo dare il massimo e per dare il massimo dobbiamo dare assolutamente i primi tagli. Ecco, guarda, ti leggo un SMS che mi è appena arrivato, dice: nelle polpette dei ristoranti ci sono gli avanzi di tutta la settimana, baci Carla. E io spero che non sia così, cara Carla, spero che anche quello che si sta dicendo ora Nonis sia in parte. Io credo che ci sia un miglioramento anche di onestà in questi tipi di lavoro, speriamo che sia così. Comunque rimani con noi Fabrizio che poi ti chiederò altre cose. Sentiamo Giorgio da Bologna. Buongiorno Giorgio. E buongiorno Davide, buongiorno a te. Ciao, sono Giorgio Menna, buongiorno. Ah, ciao Giorgio. Buongiorno Davide. No, volevo così insinuarmi raccontando brevemente la nostra polpetta che ha l'aggiunta della mortadella e quindi ci sta il grasso, quindi il manzo naturalmente, il grattugiato, l'aglio, però c'è questa aggiunta di mortadella. Ecco, voglio ricordare che Giorgio Menna che ci sta parlando organizza ogni anno a Zola Predosa un grande festival internazionale della mortadella, quindi lo ricordo con molto piacere Giorgio, visto che tu hai ricordato appunto nelle polpette la mortadella, voglio ricordare questa tua bellissima iniziativa. Grazie. Quindi dicevi che la caratterizzazione della zona del bolognese è la mortadella. È l'aggiunta della mortadella, tra l'altro nelle vecchie osterie non sempre, ma la domenica la versione era quella del ripieno del tortellino, quindi l'impasto fritto sicuramente in olio bollente, quindi l'impasto del tortellino diventava la polpetta. Bene, grazie a Giorgio Menna di Enogà. Grazie. Ciao. Grazie e torniamo a Anna Calia che ci stava raccontando la polpetta di pane, di mollica di pane. queste polpette e la polpetta di pane. Non sono d'accordo con la signora Carla, perché nei ristoranti, io gestisco due ristoranti, quello della Casa di Lucio e quello dell'Hotel Sant'Angelo nel cuore dei Sassi di Matera, e le polpette non vengono fatte con gli avanzi da noi, vengono preparate apposta. Bene, grazie, grazie Anna di questa... Volete la ricetta? Sì, la ricetta del pane. Sì. Uova fresche, montare le uova con un pizzico di sale, aggiungere del prezzemolo, del parmigiano e poi la mollica di pane raffermo. Lei conosce il pane di Matera? Certo, è molto pane bene. Ottimo. Il tutto queste polpette vengono fritte con abbondante olio bollente e poi vengono passate col sughetto pomodoro e sono sofficissime, sono gustosissime. Bene, grazie Anna Calia della Casa di Lucio di Matera. Volevo ricordare che Alessandra De Leonardis nella sua esibizione, un'altra cosa che mi ha molto colpito è che la mollica viene lavorata col vino rosso, e anche questa è una caratterizzazione abbastanza particolare, però dà molta sofficità alla polpetta, quindi un altro interessante segreto. Bene, abbiamo con noi anche Lodovico Testi, che è titolare della trattoria Dalla Rosa Alda in Valpolicella a San Giorgio, e devo dire che anche le sue polpette le ho trovate sempre straordinarie. E Lodovico, come le preparate voi le polpette? Bene, buongiorno intanto. E da noi le polpette è un piatto di grande tradizione di questa famiglia di Osti, che risalgono a 150 anni fa circa. Proprio tradizione, sempre nella stessa casa. Le polpette è un piatto molto semplice e usiamo carne di manzo con l'aggiunta di un po' di carne di maiale che dà un po' di morbidezza, e poi le vengono impastate insieme con erbe selvatiche, erbe che abbiamo la fortuna che vengono un po' portate dai paesani che si trovano primavera e in autunno, dove raggiungono proprio la massima qualità, e poi vengono messe semplicemente alla griglia. Bene, quindi infatti ricordavo queste polpette veramente molto buone alla griglia. Bene, grazie a Testi della trattoria Dalla Rosa Alda, appunto in questo splendido posto della Valpolicella, dove chi è amante dell'amarone trova delle serie storiche straordinarie. Il gastronauta. Eccoci ancora a parlare di polpette. Devo dire che degli sms e delle telefonate veramente è un piatto che ancora va a ruba. Ricordo numero verde 800 24 00 24 e ringrazio il radioascoltatore che ha risolto il rebus del sedano, che è stato chiamato Marconi da un ascoltatore ristoratore, e abbiamo scoperto che è il sedano di Montevarchi. Il sedano di Montevarchi in effetti è molto ma molto noto. Sentiamo un altro radioascoltatore, Brendan da Viterbo. Buongiorno Brendan. Pronto, buongiorno a tutti. Un semplice suggerimento per una ricetta di stagione di questo periodo: le polpette che fa mia moglie fritte con dentro l'uva fresca. Bene, divertente anche questo. Grazie Brendan dalla provincia di Viterbo. E allora abbiamo con noi Arturo Maggi della nota latteria di San Marco a Milano. Ebbene, devo dire che in questo locale si mangiano delle polpette al limone che vanno ruba. Io le volte che sono stato in questo locale nel menù c'erano le polpette al limone, vedo che in pochi minuti andavano completamente esaurite. Buongiorno ad Arturo, ma qual è il segreto, Arturo, di queste polpette al limone? Pronto, buongiorno. Qual è il segreto delle polpette al limone, Arturo? La semplicità. Ecco. La carne, il reale o la spalla. Il reale per me è ancora meglio perché ha quelle piccole puntine di grasso, come diceva prima quella signora. Così rimangono belle morbide. Più la cottura io la faccio in argento. Ecco il segreto. E l'argento tira tutto dolce. Tutto porta dei sapori molto molto amabili. Quindi il segreto nell'impasto è il solito: formaggio, uova, prezzemolo, un pochino di pane, poco, se no mi l'asciuga troppo, e olio di arachidi o d'opero, perché quello di oliva me le farebbe diventare un poco amare. Senta Arturo, lei... E da ultimo una spruzzatina di limone e acqua, un filo d'acqua. Ecco. Così tolgo il grasso e viene fuori una cucina. Lei diceva prima prezzemolo, quindi lei di erbe dentro mette solo il prezzemolo? Solo prezzemolo, è da poco tempo che metto anche un filino di buccia di limone. Quindi, che va benissimo se è regolato perfetto, se è un pochino troppo dà fastidio. Lei da quanti anni fa questo piatto? Ma io è 30 anni che faccio questo piatto, che lo conosco in tutto il mondo ormai. Quindi è un piatto che va, quando io ho quel piatto tutti gli altri piatti vengono consumati poco. Quindi viva la polpetta, grazie Arturo Maggi della Latteria San Marco, grazie, a presto. Continuiamo questo viaggio, sentiamo Fabrizia da Firenze, buongiorno Fabrizia. Buongiorno, sì, io la sento sempre. Bene. Io le polpette non mi piacciono col prezzemolo, io ci metto il fiore del finocchio selvatico, che d'estate io raccolgo perché ho una casa a Maremma, lo raccolgo, lo secco e poi lo uso durante l'inverno e gli dà questo profumino particolare che vengono buonissime, sia mangiate così che passate al pomodoro. Bene, quindi abbiamo imparato un altro segreto, abbiamo dalla signora Fabrizia da Firenze che non ama il prezzemolo. Bene, sentiamo Anno dalla provincia di Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. E buon appetito con le polpette. Grazie. Invece ho imparato da una parente che veniva da Sofia, che faceva le polpette in parti uguali, con le cipolle fatte fritte leggere morte, carne di maiale e carne di manzo in proporzioni uguali. Poi leggermente infarinate, fritte o fatte col pomodoro, che erano buone, buone, buone. Bene, grazie ad Anna, grazie ad Anna. Grazie torniamo, a lei. A presto. Torniamo al nostro Fabrizio Nonis. Fabrizio, hai sentito un po' tutti i tagli, che i nostri radioascoltatori che sono intervenuti usano le polpette. Tu hai qualcosa da aggiungere a questo? C'è qualche altro taglio che non è stato citato? Ma guarda, Davide, intanto è straordinario come veramente ascoltare la tua trasmissione, si impari veramente in maniera straordinaria. Come la variegazione proprio della cultura gastronomica italiana sia incredibile. Quando si parla poi di polpetta, che è un elemento poi di base e anche molto semplice ma storicamente fondamentale per tutti gli italiani, io quello che posso dire è questo: scegliamo i tagli, dicevo prima Davide, i tagli importanti vuol dire i primi tagli non vuol dire certamente filetto roast beef o noce o fesa, però i primi tagli intendo i tagli proprio predominanti, quindi piccione, reale, tagli che sono nobili comunque magari del quarto anteriore, anche della coscia, perché ricordiamoci, il piccione è un taglio che sta fra la noce e la fesa, è un po' denigrato da tutti, che però una volta tritato due o tre volte, finemente dà delle polpette strepitose, perché proprio è un taglio comunque nobile, è un taglio che comunque mescola una leggera marezzatura e riesce a dare un equilibrio giusto fra il rapporto fra il magro e il grasso giusto, che si scioglie da morbidezza la polpetta e anche gusto, perché tu lo sai che comunque il gusto viene dato dal grasso, da una leggera avvenatura di grasso. Bene, grazie a Fabrizio Nonis, grande macellaio, a presto Fabrizio. Continuiamo questo viaggio e ora andiamo vicino a Roma, anzi anche a Roma, perché Antonello Colonna è radicato ora anche a Roma. Colonna ha una specialità, fa le polpette di baccalà e quindi sono un qualcosa di diverso, però di molto interessante. Antonello, ce ne parli di questa polpetta al baccalà? Intanto ciao e grazie per la stima. Beh, intanto le polpette hanno sempre rappresentato la goliardia e la tradizione romana, quindi la polpetta al sugo e la domenica è mitica. Quella col pomodoro, polpette, eccetera. Io da qui mi sono ispirato un po' a reinterpretare la crocchetta di baccalà, che la mia crocchetta di baccalà non è nient'altro che una brandade provenzale, un po' romanizzata, e quindi presentata a mo' di polpetta. Gli ingredienti sono il filettone di baccalà che viene bollito, lo spicchio d'aglio anche bollito e quindi mixato insieme al baccalà, poi così c'è una patata lessa e la curiosità è un rosso d'uovo sodo in proporzione a quelle che poi diventano appunto le polpette. Poi una volta ottenuta questo mantecato è già eccezionale spalmarlo su un crostino di pane, su una bruschetta, e poi diventa ancora più straordinario fare la polpetta e friggerla, passarla nell'uovo, farina, uovo e friggerla. Quindi questa è la mia polpetta o crocchetta di baccalà. Antonello, senti, tu che sei un cuoco anche molto molto creativo, però la gente ama ancora questi piatti tipo la polpetta di carne, che purtroppo sono completamente spariti. Io credo che ci siano così molti cuochi in giro, non chiamo chef ma li chiamo cuochi, i quali sulle ali della creatività pensano così di fare dei piatti un po' esotici, un po' straordinari, e non si rendono conto invece che il pubblico chiede ancora questi piatti, che sono piatti di casa, che ricordano gli odori di casa. Io guardavo gli SMS, sono arrivati tanti e tantissimi, tutti parlano di questo piatto della mamma, della nonna, dice non lo troviamo più nei ristoranti. E tu cosa ne pensi? No, io ne penso che il futuro sarà quello, con tutto rispetto per la creatività che anche io ho dovuto per una serie di motivi cavalcare, ma qui oggi appunto tu accennavi che sono a Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, oggi faccio un brunch e lo definisco il brunch della domenica, proprio perché sui miei buffet si trova il cannellone, la lasagna, la parmigiana di melanzane, le polpette al sugo, gli involtini con la salvia, i salti in bocca. Cioè noi non possiamo perdere la memoria, non possiamo perdere i codici di quella gastronomia e di quella cucina che ci sta rappresentando e che ci ha rappresentato in tutto il mondo. Poi sono aperto alla creatività, ma sempre conoscendo e mantenendo le regole. Il pubblico vuole sentire questi sapori. Io non vorrei che questa cucina estremamente creativa possa un giorno diventare una sorta di prototipi per gli addetti ai lavori, come quando il grande Pininfarina disegnava macchine che non metteva mai in commercio. Quindi bisogna stare attenti. Il pubblico non va preso in giro, il pubblico ama i sapori, il pubblico fortunatamente ancora qualche nonna la ricorda. Bene, grazie Antonello Colonna. Sentiamo una radioascoltatrice, Imma da Napoli. Buongiorno Imma. Buongiorno. Mi dica. Io chiamo da Napoli e volevo riferire una ricetta di una polpetta al profumo d'aglio. Bene. Ritornando al discorso del precedente cuoco che un attimo fa ha parlato con voi, e i sapori devono essere semplici, quindi per noi la polpetta è l'impasto di manzo, ovviamente primo taglio, un po' di mollica di pane, uova, tanto parmigiano, un pizzico di romano, e al centro praticamente imbottirla con uno spicchio d'aglio e un ciuffo di prezzemolo. Bene, grazie a Imma da Napoli, che ha dato appunto la voce di Napoli, che sulla cucina tradizionale sicuramente ha molto da raccontare. Sentiamo anche Gianni dalla provincia di Lecce. Buongiorno Gianni. Gianni, buongiorno. È sparito. Bene, cerchiamo di recuperare il nostro amico Gianni dal Salento. Io ora ho con noi anche un altro ristoratore, che è Daniele Minarelli dell'Osteria della Bottega di Bologna, che fa una cucina molto legata al territorio, molto legata alle tradizioni. Sì, però si va all'uovo. Allora io vorrei chiedere a Daniele Minarelli se questa cucina appunto fatta di polpette, fatta di tagliatelle, fatti di piatti tradizionali incontra ancora. Buongiorno Minarelli. Con l'uovo, no? Pronto Minarelli? Niente parmigiano. Pronto Minarelli, buongiorno. Praticamente manzo, parmigiano. Bene, uovo. Sentiamo che sta parlando con qualche interlocutore. Bene, lo richiameremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di polpette. Visto il grande successo che di SMS e di telefonate dei radioascoltatori, vuol dire che questo piatto ancora veramente attira e non poco. Bene, abbiamo con noi, abbiamo recuperato Daniele Minarelli dell'Osteria della Bottega di Bologna. Buongiorno Minarelli. Buongiorno a lei. Senta, ma la polpetta che fa lei ha una particolarità bolognese oppure una polpetta certo, tradizionale? La polpetta nasce come un grande piatto di recupero, dimenticate, come i grandi piatti poveri, dopo diventano i grandi piatti della cucina, della nostra cucina. Ci ricordiamo quando dalle pentole uscivano questi mandi che venivano utilizzati per essere recuperati per fare la polpetta, con questi intinguli, queste patate che ancora me ne sogno, vedo ancora degli occhi quando mia nonna me le faceva, grande cosa. Ecco, lei ora le ha rifatte però nella sua trattoria. Ovviamente, i grandi piatti poveri sono in definitiva i grandi piatti della cucina italiana, un tesoro della nostra cucina. Lei che taglio di carne usa per fare la polpetta? Noi usiamo un una volta la polpetta è il piatto dei poveri, adesso certo. Praticamente no, è come dire il pancotto, non ci sono più le polpette per i poveri, certo. Il taglio di cane che usiamo praticamente, quando vogliamo fare la polpetta, quando facciamo il bollito, noi usiamo il manzo che rimane, aggiungendo la mortadella, aggiungendo la mollica di pane, l'uovo, e poi praticamente viene fatto questo intingolo con la patata e viene fatto questo piatto che è la polpetta, che noi serviamo ai nostri clienti. È un piatto che è gradito moltissimo, ecco. Quindi ha successo la polpetta? La polpetta è un successo, fatta per gli umani e mangiata con le mani, è un grande successo la polpetta. Magari abbinata al lambrusco? Di fianco al lambrusco, la polpetta ovviamente, anche per gli ingredienti, anche perché si può fare la polpetta praticamente con la mortadella, con l'uovo, il parmigiano, il lambrusco. E il vino diciamo che si abbina molto molto bene a questo piatto, ecco, anche perché quando la si fa fritta, se la si fa fritta c'è questa parte di unto, il lambrusco va a togliere questa parte di grasso leggero che lascia la frittura, ecco. Bene, grazie a Daniele Minarelli dell'Osteria della Bottega di Bologna, grazie. E ora andiamo a Sansepolcro da Giovanni Tricca del ristorante La Balestra, perché nel suo menù dei bambini c'è la polpetta di spinaci. Cos'è, Tricca, questa polpetta di spinaci? La polpetta di spinaci è un modo di contrapporsi al fast food americano, quindi vuol dire che anche noi abbiamo delle cose da proporre senza ricorrere a McDonald's. Io ascoltavo chi mi ha preceduto, io penso che la polpetta sia in Italia un fatto di grande cultura, perché prima di tutto perché era il modo di utilizzare il quarto anteriore, quello più povero, perché le polpette poi si fanno con la coperta di sotto, con il collo, con il sottospalla, cioè con quelle cose che di solito non si usano in un ristorante. Invece riproporre un piatto con una polpetta vuol dire dare senso alle tradizioni e alla vecchia cucina. Ogni regione ha un modo di fare polpette diverso. In Toscana la base delle polpette è sicuramente l'aglio, le patate. Però ogni regione italiana, certo, è vero, ha la sua polpetta. Io tra l'altro sono qui, senti un sottofondo, perché c'è un convegno sulla razza canina. Quindi il top per noi è quello di presentare una polpetta di razza canina. Bene, grazie a Giovanni Tricca. Sentiamo Gianni dalla provincia di La Spezia. Buongiorno Gianni. Buongiorno Davide. Buongiorno. Qua in Lunigiana e a Sarzana usa fare una polpetta con macinato, con solito formaggio, uova e mollica di pane bagnata nel latte, con l'aggiunta di riso lessato piuttosto al dente. Bene, originale. In una quantità di circa il 50%. Forse se si va alle origini storiche ci sono delle mediazioni con gli arancini siciliani. Certo. Grazie a Gianni della provincia di La Spezia anche per questa ricetta inedita. Sentiamo Ruggero da Milano. Buongiorno Ruggero. Buongiorno. Mi dica. Io volevo parlare di una polpetta che non è stata menzionata, è una tipica polpetta milanese. Sì. E si chiama Mondeghili. Certo. La conosci? Come no, vivendo a Milano la conosco, sì. Ecco, e allora è una polpetta incredibile, perché io vengo da tre generazioni che facciamo i salumieri, i cosiddetti gastronomi, no? E facevamo questa polpetta con i fondi di tutti i tipi d'affettato, dal crudo, il cotto, la pancetta, il salame, la mortadella. E si tritava tutto questo, poi si metteva tuorlo d'uovo, pane grattugiato, formaggio, si metteva un po' di prezzemolo, uno spicchio d'aglio e un amaretto. Ah, addirittura, ecco, ogni un amaretto e dava, guardi, non le dico, quando noi facevamo il giorno stabilito, il giovedì mi sembra, facevamo questo enorme piatto di polpette e durava pochissimo perché dava un aroma in tutto il quartiere. Bene, grazie a Ruggero per questo ricordo e grazie per questo, anche lui ci ha dato una chicca in più di un componente delle polpette. Ma ora andiamo da un altro macellaio, andiamo da Franco Cazzamali a Romanengo. Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo sentito varie cose, vari tagli sulla polpetta. Abbiamo sentito, e io con molto piacere, ho sentito più volte nominare il quarto anteriore, cioè quello considerato da molti un diciamo quarto minore rispetto al posteriore. In realtà diciamo siamo in molti a ritenere la superiorità dell'anteriore. Tu che sei un po' diciamo il profeta dell'anteriore, le polpette sicuramente le facciamo da tagli dell'anteriore. Ma senz'altro sì, anche perché abbiamo un altro tipo di grano della carne, un'altra infiltrazione di grasso. Non dimentichiamoci che la polpetta deve essere abbastanza morbida, cioè non asciutta. Perciò se noi usiamo della coscia, innanzitutto non riusciamo ad avere quel gusto e quel sapore, soprattutto quella morbidezza, ma soprattutto abbiamo anche un costo elevato. Non dimentichiamoci che la polpetta nasce come, tra virgolette, come piatti da poveri, insomma. Ecco Franco, tu usi sempre nella manipolazione della carne, cioè nel senso quando si tratta la carne con le mani o d'altro, l'acqua minerale. Anche nella lavorazione della polpetta ritieni che sia importante questo? Sì, è molto importante per un fatto molto semplice, perché l'acqua minerale gasata ti dà una mano ad amalgamare il tutto, cioè ad avere un sapore e una compattezza generale, ma soprattutto dopo io la vado a togliere con la macchina del sottovuoto. Però l'acqua minerale praticamente vedi che io la metto un po' dappertutto, perché diciamo che è un po' il trait d'union un po' di tutte le parti. Teniamo presente che io uso sia il manzo che il maiale, prosciutto cotto, mortadella, ricotta, pane grattugiato, formaggio grattugiato, uova, sale, naturalmente acqua minerale fredda, con un controllo sempre del pH. Ecco, abbiamo sentito una nuova cosa, ricotta. Grazie a Franco Cazzamali di Romanengo, macellaio Romanengo. Sentiamo Sergio dalla provincia di Como, l'ultimo radioascoltatore, perché non ho più tempo. Sergio, buongiorno. Buongiorno Davide, sono Sergio, ristoratore di Mariano Comense. Bene. Dunque io mi riallacciavo esattamente al discorso del Mondeghino milanese. Sì. Diciamo che io ho imparato a utilizzare le polpette già da anni, lo presentiamo anche come stuzzichino iniziale nel nostro ristorante, o anche come piatto invernale servito poi con oppure avvolto nella verza o con le cipolle stufate alla brianzola. Diciamo che noi utilizziamo soprattutto gli sfrilli della carne che togliamo dai filetti o dai rosbi che noi utilizziamo dalle spalle di vitello. Mandiamo in cottura la carne con delle verdure, per cui la stufiamo. Poi la sgrassiamo completamente, poi aggiungiamo della mortadella di fegato rigorosamente fatta in Brianza, un po' di mortadella di Bologna, un pezzo di salame possibilmente crudo fatto qui, delle uova, del formaggio, del prezzemolo, un profumo d'aglio, un po' di noce moscata. Bene, ricca, molto ricca. Grazie Sergio, hai individuato chi sei. Grazie, a presto. Bene, e devo dire un'ultima risposta. Sono arrivati tanti, però devo dire, devo rispondere a cos'è la cottura all'argento che ha nominato Arturo Maggi. La cottura in argento è con tegami e padelle appunto in argento, perché secondo i concetti alchemici è, diciamo, il miglior conduttore di fuoco. Quindi sicuramente c'ha una cottura omogenea e molti la stanno adottando, molti chef e molti cuochi e anche in molte case. Bene, oggi abbiamo chiuso con la polpetta, mi viene da dire buona polpetta a tutti, vi ringrazio di essere stati in ascolto con noi, di essere intervenuti, vi do appuntamento domani, domenica alle 10 per la replica di questa trasmissione, quindi potrete così scrivere magari qualche ricetta che vi è sfuggita, e poi alle 12.15 con il Wine Bar del Gastronauta e tutti i giorni con la pillola alle 18. Buon weekend da Davide Paolini. Scoprite i piaceri del Molise dal 29 ottobre al 2 novembre. www.piaceremolise.eu. Vi ha presentato il Gastronauta. Bene, e allora io passo la linea ora alla regia perché ci introduca sulla viabilità, e dopodiché torneremo fra poco e sentiremo sia Minarelli e gli altri ospiti. A fra poco. Ebbene, ora passiamo la linea alla regia. Fabrizio, rimani con noi ancora per poco, e cari radioascoltatori, fra poco ritorneremo. Numero verde 800 24 0024. Bene, grazie a Marco Gubbiotti. Alessandra, rimani con noi. Passiamo la linea alla viabilità. Torneremo fra poco.